Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come sempre, due rapide informazioni di servizio. La prima riguarda la nostra mail, alla quale segnalare le richieste o segnalazioni di abuso. Un abuso al giorno @radio24.it. La seconda informazione di servizio riguarda il mio blog, che come ormai sapete si chiama Guardie o Ladri. Lo trovate sulla homepage del Sole 24 Ore oppure digitando un qualunque motore di ricerca. Allora, alcuni anni fa, segnatamente nel 2005, un comune in provincia di Pavia, quindi ci troviamo in Lombardia, Voghera, aveva visto lungo su alcuni modi con i quali accompagnare, diciamo così, gli ultra sessantenni, gli ultra sessantacinquenni, gli anziani vittime di truffe, furti o rapine. Quindi un modo come un altro per stare accanto a chi subisce grandissimi torti ed è vittima di reati. L'aveva fatto in che modo? Prevedendo delle assicurazioni gratuite a tutti i pensionati ultra 65 anni, quindi delle polizze antitruffe. Oggi il comune di Voghera, sulla scia di quella decisione assunta ormai quasi 5 anni fa, ha deciso di abbassare la soglia delle persone che possono rivolgersi al comune se sono soggetti a furti, rapine, scippi. Per questo noi ne parliamo oggi con il sindaco di Voghera, Aurelio Torriani. Buongiorno Torriani. Buongiorno, ma non ho capito cosa vuol dire abbassare, non ho capito cos'è. Voi avete adesso previsto anche che gli ultra sessantenni possano richiedere questa polizza, e quindi abbassare in italiano vuol dire questo: da 65 a 60 vuol dire abbassare l'età delle persone che possono ricorrere a questa polizza. Lo conosce l'italiano, Torriani? No, ma mi sembra che sia 65 come prima. Ah beh, io leggo un'agenzia di stampa che allora dice 60 anni, quindi non è vero che voi avete abbassato la soglia a 60 anni? Parliamo seriamente, no, Torriani, io sono abituato. Io sono abituato a parlare seriamente. Non si permetta di dire che non parlo seriamente. Allora, io sto parlando seriamente, Torriani. Lo faccia anche lei se vuole, altrimenti arrivederci e grazie. Allora, voi avete votato una polizza antitruffa? Sì. Oh, allora, ce ne vuole parlare gentilmente. Io leggo, non me la sto inventando, un'agenzia che dice: nel 2005 il comune di Voghera aveva precorso i tempi fornendo un'assicurazione gratuita a tutti i pensionati. Quest'idea originaria è stata ampliata dal sindaco Aurelio Torriani e dall'assessore al bilancio Daniele Salerno, che hanno stabilito di estendere la copertura assicurativa anche alle truffe messe a segno negli abitazioni degli ultra sessantenni. È vero o non è vero? 65 anni. Ok, e quindi questo qui non è vero. Allora, qual è questa? Insomma, che io sappia, mi sembra che sia ultra 65 anni. Quindi diciamo che abbiamo esteso anche le truffe domestiche, cioè quelle che gli anziani subiscono in casa da parte di persone che si spacciano come dipendenti della pubblica amministrazione o addirittura di agenti di polizia, addirittura vede che stiamo entrando nel merito. Allora, questa polizza antitruffa come sta funzionando, visto che l'avete introdotta nel comune di Voghera dal 2005? Cioè, ci sono tante persone che si sono rivolte a voi, come, che soddisfazioni vi ha dato? Non ce li ho sotto mano, ma diciamo che è stata utile, è stata apprezzata e ha contribuito concretamente, diciamo, a dare una percezione maggiore di sicurezza in una città che però riteniamo che sia tutto sommato tranquilla. Ecco, ma infatti proprio questa era la domanda che le stavo facendo, vale a dire se il suo comune è un comune che magari ha problemi che si riscontrano invece in altre aree della Lombardia. Penso ad esempio il bresciano, che è preso di mira purtroppo da una criminalità molto molto feroce. Ecco, invece a Voghera la situazione è tranquilla. La situazione è più tranquilla sicuramente che nel bresciano, solo che abbiamo una percentuale di ultra 65 anni molto alta. Ho capito, benissimo. Allora, questo è, diciamo così, il quanto sta facendo il comune di Voghera, e il sindaco ci ha detto che l'informazione che è stata diffusa alle agenzie di stampa e che io ho testualmente letto in realtà non abbassa la soglia dell'età, ma copre, diciamo, una tipologia più ampia di più ampia di reati. Bene, a questo punto io ho chiamato a discuterne con noi anche il capogruppo all'opposizione del PD, Giannino Gatti. Buongiorno Gatti. Buongiorno. Allora, mi pare che su una cosa del genere non dovrebbe esserci distinzione fra maggioranza e opposizione. Le piace questa idea della polizza antitruffa oppure l'opposizione ha qualcosa da dire? Qualche precisazione innanzitutto. La polizza nasce nel 2005, sì, e i rischi tutelati erano furto, rapina e scippo. Quindi sì, la differenza che ha colto l'agenzia di stampa probabilmente informazione sbagliata, perché la polizza nasce come tutela contro furto, rapina e scippo, riguarda i cittadini oltre 65 anni, quindi i vogheresi residenti. Certo. L'amministrazione recentemente l'ha estesa anche per il reato di truffa, quindi la novità rispetto al passato è questa, la truffa, certo. Nelle tutele, la truffa. La cosa interessante, essere d'accordo o non d'accordo, non si può non essere d'accordo. Indubbiamente. Però in tema di numeri, io a differenza forse dal sindaco, mi sono premurato di reperirli, con i numeri davanti devo dire che questa operazione, che mi fa l'impressione proposta dal broker assicurativo più che dall'amministrazione all'inizio, devo dire che alla luce dei numeri, che poi se volete sono inequivocabili, diciamoli, allora l'operazione assume quasi la valenza di un marketing politico più che di tutela dei cittadini. Allora diciamo i numeri. Le dico questo, no, tutela dei cittadini che c'è, le dico questo. Ho i dati di un quadriennio, per la precisione dal 14 ottobre 2005 al 31/7/2009. La polizza, abbiamo detto, si rivolge agli ultra 65 anni, in città sono 10.070, con tendenza ad aumentare perché la città invecchia in un modo inesorabile, questo da tempo. Allora, in questi 4 anni sono stati denunciati 74 sinistri, quindi fate voi i conti, 74 diviso 4, di cui pagati 68 sinistri in 4 anni. In 4 anni sono stati pagati 7.397,25 euro, quindi con una media a sinistro di 108 euro. Ecco, perché il risarcimento, ricordiamole, correggetemi se sbaglio, ecco, è fino a 500 euro. Oltre che l'idea, e il discorso sarebbe di entrare nel merito delle tutele, no? Perché c'è un massimale di, per in caso di furto, rapina e scippo, al di là del fatto che tu devi aver subito il furto, la rapina o lo scippo entro 24 ore da quando hai prelevato al bancomat o da quando hai prelevato la pensione. Ma 24 ore sono 400 euro. Ma 24 ore sono sufficienti per denunciare, Gatti, comunque, voglio no, dire. No, non denunciare, tu devi aver subito, non denunciare, poi devi denunciare. Appunto, è la stessa identica cosa, le due cose coincidono. Io subisco un furto, una rapina o una truffa e denuncio affinché il comune possa venirmi incontro. Io devo subire, e comunque entro 24 ore da quando ho prelevato. Esatto. No, devo subire. Dopodiché c'è questo massimale di 400 euro in caso di furto, rapina e scippo, in caso di truffa. Ecco, ma adesso, Gatti, cos'è che non la convince? Cioè, tutto sommato, questi anziani, siano tanti, siano pochi. Questi due numeri, guardi, in 5 anni sono stati spesi 50.397 euro. Oh, ecco, quindi 53.000. 50.397 euro, che la polizza costa in media 1,30 euro. Ho capito, quindi lei dice il costo dell'operazione supera il vantaggio che ne ha il cittadino. Stati pagati 7.397 euro. Affronte, mi chiedo se ne vale la caso pena. Che in caso di queste evenienze, quale io sono d'accordissimo per la precisione, che il comune dia una mano ed intervenga, al di là quindi delle situazioni reddituali dei cittadini, perché la polizza non tiene conto di questo, basta il requisito solo essere oltre 65enne, e quindi se non è al caso, non so, di o elevare i massimali oppure che addirittura il comune intervenisse di persona. Ecco, dato allora lei è chiarissimo, Gatti, la ringrazio per questa sua precisa osservazione. Lascio, come forse è doveroso, che sia la parola conclusiva a Torriani. Torriani, provocatoriamente, quindi raccolgo ciò che dice Gatti e le chiedo: ma non sarebbe più logico logico, magari, non so, fare di volta in volta una delibera che stanzi una certa cifra anziché pagare, come dire, un premio che supera poi quello che viene dato alle persone sinistrate. Beh, questo fa parte dell'assicurazione, certo, direi che certo. L'idea è venuta all'amministrazione e precisamente a me, altrimenti l'avrebbero tutti i comuni, se fosse da un broker magari l'avrebbero più comuni. Certo. Questo per rispondere ai Gatti, che le posso assicurare che è un'idea che è venuta a me, perché il nostro territorio è molto ricco di oltre 65 anni e siccome gli oltre 65 anni possono essere preda di queste truffe, noi abbiamo pensato così. Ovviamente dopo un certo periodo di tempo che andrà dai 5 ai 10 anni, se questo non sarà più come dire, conveniente, non lo faremo più, certo. E faremo un altro modo. Benissimo, io ringrazio i nostri due ospiti politici per i loro interventi. Grazie e buona fortuna ovviamente all'amministrazione comunale di Voghera in provincia di Pavia. Grazie a Michele Previato in regia e in studio ad Antonella Migliaccio. E Roberto Galullo vi dà appuntamento domani per una nuova puntata.